Il punto di Stefano Folli. Ma che cosa induce Mario Monti a tirare in ballo la Merkel, fino al punto da provocare una messa a punto del portavoce tedesco e dovendo poi egli stesso precisare e correggere le cose dette qualche ora prima? È la difficoltà degli ultimi giorni della campagna, il desiderio di giocare il tutto e per tutto, per indebolire e per sottrarre qualche consenso ai grandi blocchi che premono sulla coalizione centrista e tendono a soffocarla. Alla Merkel viene attribuito di essere contraria a un governo guidato da Bersani, il che può essere vero in generale, essendo la Merkel un esponente importante del Partito Popolare Europeo, ma è un argomento molto rischioso da spendere in modo così esplicito. Primo, perché costringe il partner tedesco a smentire, a negare che ci sia un veto a un governo di sinistra in Italia. Secondo, perché consegna a Monti a ruolo che tutti gli attribuiscono, ma che forse è rischioso e scomodo evocare alla vigilia del voto, essere cioè lui il garante politico ed economico dell'Europa tedesca in Italia.